Buonasera a tutti. Io sono Alessandro Mantovani, sono un giornalista del Corriere di Bologna, che è la cronaca locale qui del Corriere della Sera. E siamo qui questa sera per presentare il libro di Federico Tulli, Chiesa e pedofilia, il caso italiano, che è il secondo libro che Federico Tulli dedica al tema. C'era stato tre anni fa, 2011 credo, no? 2010. Anche questo, Chiesa e pedofilia, uno è il seguito, non solo direi, dell'altro. Federico scrive di è un giornalista che scrive di temi di bioetica e di temi scientifici, scrive sui periodici del Corriere come Sette, scrive su Left, ha un blog, dirige un sito che si chiama Cronache Laiche. E da anni si occupa di questo tema agghiacciante della pedofilia nel clero, tema agghiacciante, spinoso e particolarmente difficile in un paese non solo concordatario come il nostro, ma in un paese in cui la Chiesa Cattolica ha una tradizione di forza e di influenza politica che su questo tema della pedofilia, ma non solo, si sprigiona soprattutto come una gigantesca censura, perché è incredibile, ed è uno dei dati dai quali parte il lavoro di Federico in questo libro dedicato all'Italia, ma poi non solo, perché se il primo inquadrava storicamente il tema della pedofilia e degli abusi sessuali e le risposte che dai primi secoli cristiani vennero dalle chiese cristiane, dalla Chiesa Cattolica Romana in particolare, questo è un libro che si sofferma e analizza molto a fondo le risposte che negli ultimi anni sono venute dalla Chiesa, che dagli ultimi papi sono venute dalla Chiesa, con una ricostruzione veramente molto dura, forte e documentata, in particolare del ruolo svolto da Giovanni Paolo II direttamente in rapporto con uno dei peggiori protagonisti di queste storie angoscianti, il fondatore dei Legionari di Cristo, Marcel de Goiado si chiama, e un personaggio terrificante, alla fine ridotto allo stato laicale, ma col quale Wojtyla coltiva un'amicizia per decenni. Non ne esce bene neppure Ratzinger, perché Ratzinger, forse più nel ruolo di prefetto della Congregazione della Fede che di pontefice, poi è a capo proprio dell'imbuto dove in Vaticano queste storie finiscono per scomparire, perché se la chiave è la censura, il pezzo forte del libro che stiamo presentando è questo impressionante carteggio tra la Commissione dell'ONU che si occupa dei crimini contro l'infanzia e il Vaticano, dove superata la coltre di tutta una serie di questioni di legittimità anche serie, nel senso che poi effettivamente il Vaticano e la Santa Sede sono tante cose in una e quindi sono uno Stato sovrano che ne esercita tutti i poteri su un territorio trascurabile e una popolazione trascurabile, sono però anche il centro di un'organizzazione gerarchica ramificata in tutto il mondo, con un proprio articolato e consolidato, quanto mai consolidato, ordinamento, nel quale appunto la Congregazione per la Dottrina della Fede è da un lato il terminale di qualunque vescovo del pianeta laddove incontra una vicenda di pedofilia, ma non solo, ma il Vaticano risponde all'ONU: non abbiamo gli atti su quante procedure abbiamo trattato. La Santa Sede non conserva gli atti, è la risposta tutte le volte che questa Commissione delle Nazioni Unite. Ora, per quanto riguarda il nostro Paese, è assolutamente incredibile che se i casi si contano nell'ordine delle decine di migliaia in Irlanda, il dato ufficiale dei 150 perseguiti, ecclesiastici perseguiti per reati di questo genere, da quando diciamo il bubbone è scoppiato, fa ridere, cioè è assolutamente incredibile per numero e proporzione, anche a voler credere che il clero irlandese ne abbia fatte più di Carlo in Francia e per qualche motivo più che in Italia, non ci siamo e siccome la Chiesa ha una lunga tradizione di vicende che sono diverse, ma allo stesso modo sono state storicamente trattate, diverse da ogni punto di vista, mi riferisco ai figli della Chiesa, ai figli dei preti che ci sono stati in tutte le epoche da quando esiste il celibato ecclesiastico. Ora, i figli dei preti nella maggior parte dei casi vengono mantenuti dalla Chiesa, purché chi se ne occupi firmi che mai e poi mai verrà fuori che si tratta del figlio di un prete. Cioè, io credo che sia assolutamente ragionevole immaginare che decine e decine, e mi tengo assolutamente basso perché ragiono su cose che non posso sapere, che non si possono sapere, in decine e decine di casi le diocesi italiane devono aver trattato vicende di questo genere quando sono state portate all'attenzione di qualcuno. Federico nel suo libro, ma in parte anche nel precedente, al di là del lavoro di ricerca, ricostruzione, analisi, indica anche alcuni nodi specifici. In altri paesi è il caso ancora dell'Irlanda, sono state affidate a commissioni indipendenti da Stato e Chiesa la trattazione di questi casi. Un tema molto, cosa però ci rendiamo conto, da un lato auspicabile, dall'altro distantissima dalla logica concordataria con cui ci si muove in Italia. Questo è evidente, anche se sempre dall'Irlanda c'è un dato che colpisce molto dell'abbattimento di circa 20 punti percentuali, dal 67 al 48, 49%, insomma, io vado a memoria, posso sbagliare di qualche unità, ma non la sostanza, della popolazione che si dichiara cattolica. Cioè un cattolico su 3-4, uno che si dichiarava cattolico su 3-4 qualche anno fa non si dichiara più cattolico adesso. Per chi conosce l'Irlanda e anche quello che la religione cattolica ha storicamente rappresentato in quel paese è un'enormità. Ma comunque, insomma, sarebbe un'enormità un po' dappertutto, perché questi non sono numeri che si modificano in tempi così brevi in assenza di shock, che invece qui ci sono stati. Un altro nodo fondamentale è l'obbligo di denuncia che non esiste in capo alle strutture gerarchiche ecclesiastiche. Che è del tutto legittimo sul piano dell'ordinamento generale italiano, perché non esistono obblighi di denuncia così estesi a carico di chi non sia pubblico ufficiale nel nostro ordinamento, ed è anche un bene che sia così per ragioni su cui non mi dilungo. Né sarebbe ragionevole attribuire la qualifica di pubblico ufficiale al vescovo. Colpisce però che nulla di tutto questo avvenga all'interno della Chiesa, neppure di una Chiesa che secondo me, anche da quello che leggo nei libri di Federico, che ne sa a pacchi più di me, in questi anni alcune cose che non aveva mai fatto prima, tutto sommato le ha fatte, anche se magari c'è da ridere sul fatto che all'ultimo conclave sia stato escluso uno direttamente responsabile di abusi, ma non uno direttamente responsabile di aver commesso gli abusi. Adesso io i nomi non me li ricordo. Chi è quello che fece il conclave, Il professore? cardinal Keith O'Brien è stato, diciamo, non è stato convocato perché è ritenuto responsabile di abusi sui seminaristi, su alcuni seminaristi inglesi. E invece ci sono stati altri cardinali che erano, diciamo, stati riconosciuti responsabili di aver coperto degli abusi e in particolare di aver protetto diversi preti, e uno di questi in particolare è stato ammesso al conclave con, diciamo, l'argomentazione che spetta alla Chiesa decidere chi è che va e non va in conclave. Naturalmente spetta alla Chiesa, naturalmente poi le organizzazioni, sempre tutte più o meno, proteggono se stesse, i propri membri e la propria immagine, ma è chiaro che questo è un dato che colpisce, perché colpisce il momento in cui avviene, cioè gli scandali sono caldi, ma evidentemente l'intreccio tra chi decide chi va al conclave e chi si trova sulla porta è talmente forte che quella porta va aperta. Soprattutto qui il tema è l'intreccio tra questa mancanza di obbligo di relazionarsi all'autorità ordinaria, all'autorità giudiziaria ordinaria per il vescovo, non farebbe i danni che fa senza la, almeno assoluta segretezza del processo canonico, perché io entro certi limiti sarei anche d'accordo che le cose sue, con le sue regole e le sue pene, la Chiesa se le vedesse per conto suo, fermo restando che un reato di pedofilia è un reato di pedofilia e quindi deve essere perseguito chiunque lo commetta a norma del codice penale italiano, se è stato commesso in Italia o comunque sotto la giurisdizione italiana. Il discorso è che con la segretezza nominalmente a tutela delle persone coinvolte del processo canonico, noi non riusciamo nemmeno a sapere se in tale o tal'altra diocesi i casi trattati siano 1, 0 o 45 o 45.000. E questo non consente di fare neppure quello che è stato fatto per lo più nei casi statunitensi, cioè il risarcimento, che poi è una delle poche cose che l'ordinamento può concretamente fare, al di là di tutte le implicazioni psicologiche, non solo, che queste vicende, che poi per le persone coinvolte il significato principale è di vedere anche dopo decenni un'azione restauratrice è evidente che non va banalizzata a un dato meramente economico. È evidente, ma è altrettanto evidente che viviamo in un mondo nel quale il danno è stato gigantesco, perché ci sono diocesi negli Stati Uniti che hanno chiuso. Io lascerei la parola a Federico Tulli con una domanda dalla quale lui forse può partire. Quanta attenzione hai trovato per questi libri da parte dei cattolici che poi dovrebbero essere più interessati al tema, perché adesso banalmente i bambini all'oratorio è più probabile che ce li mandino loro che non chi è seduto a questo tavolo. E io, che non sono certamente un esperto, invece trovo grande attenzione, preoccupazione e sgomento. Credo che proprio certe associazioni cattoliche di base che stanno nella società e non necessariamente sono così succubi delle gerarchie ecclesiastiche, sarebbero i soggetti più forti in questa battaglia contro la censura e l'omertà, perché il rischio serio è di raccontarcela tra di noi, cioè il rischio serio è di ridurla un po' a una contrapposizione ideologica e di principio che, se trova giustificazioni di ogni natura, non necessariamente ci porta lontano. Io sono stato anche lungo e mi scuso. Grazie. Vai, Fede. Sì, ecco. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Ecco, vado subito, ti rispondo in questo modo. L'attenzione da parte dei cattolici, diciamo, manifestata direttamente c'è stata in alcuni casi, nel senso che l'Avvenire, si è occupato abbastanza spesso di quello che io ho scritto su Left riguardo questo tema. E la reazione non sempre, anzi mai, è stata ovviamente positiva, insomma, anzi è stata piuttosto piccata. Una seconda parte della risposta, forse è ancora più diretta. Io ho la gran parte delle fonti da cui ho attinto per scrivere questo libro, questo secondo libro soprattutto, vengono direttamente dallo Stato Città del Vaticano. Gran parte. Un'altra grossa fetta viene da parte di un lavoro capillare di inchiesta che fa un'agenzia di stampa cattolica che è la Adista, E poi ci sono documenti presi qua e là, soprattutto per dire, ecco, l'abbiamo sentito nominare recentemente questo Noi Siamo Chiesa, che è un gruppo cattolico di base, appunto. L'abbiamo sentito nominare, ha fatto parecchio scalpore, insomma, un nome di cui si è sentito parlare, mi sembra, un paio di settimane fa, perché i due capi di questa organizzazione cattolica di base, marito e moglie, sono stati scomunicati da Papa Francesco. Lei è stata la prima scomunica di Papa Francesco, è andata a colpire proprio questa organizzazione perché la donna ha osato officiare una messa, ovviamente senza alcuna autorizzazione, e poi in quanto donna, appunto, ecco, questa cosa qui. E noi siamo... Esattamente, probabilmente sì. Noi siamo Chiesa nel libro è citata perché sono circa 4-5 anni che scrivono ai diversi papi che si sono succeduti in quest'ultimo periodo, per chiedere, ad esempio, di rinnalzare l'età minima entro cui si può fare la comunione e quindi entro cui ci si può confessare. Attualmente è 7-8 anni e lo è da un centinaio d'anni, cioè dal 1906-1907. Prima era da 14 anni in su. E loro giustamente dicono, e l'ho riscontrato anche da altre fonti, è che il confessionale e tutto ciò che avviene nell'ambito della confessione, che è sottoposto a un segreto vincolante in tutto e per tutto, pena la scomunica, ancora non sono arrivato alla fine, già si spegne la luce, perché appunto è nell'ambito del confessionale che avvengono. Che avviene gran parte dei crimini di cui stiamo parlando. Quindi Noi Siamo Chiesa ha scritto al Cardinal Bagnasco, ha scritto a Joseph Ratzinger quando era Benedetto XVI, gli ha riscritto adesso che è Papa Emerito, ha scritto anche a Papa Francesco chiedendo di ripristinare quello, diciamo appunto, questo vincolo che porterebbe, innalzerebbe di nuovo a 14 anni appunto, la possibilità, diciamo, l'età minima per poter fare la comunione, quindi per entrare a contatto col sacerdote nell'ambito del confessionale, che non è solo la confessione, ma è tutto, diciamo, anche quello che c'è prima e quello che c'è dopo. Poi, se è possibile, ecco, direi, tu hai toccato due, anzi, ovviamente dei punti fondamentali, quello del danno economico, lo vorrei un attimo accennare perché secondo me può cercare di far capire che cosa è successo anche in quest'ultimo anno e anche diciamo, potrebbe essere una delle motivazioni per cui a un certo punto Joseph Ratzinger si è fatto da parte, si è spostato solo di qualche metro, insomma, e ha lasciato il trono di pietro a Papa Bergoglio. Nel 2012 a Roma c'è stato un simposio internazionale organizzato dalla Santa Sede che si intitolava Verso la guarigione e il rinnovamento. Ed erano invitate, questo termine lo usa spesso la Santa Sede, invita, tutte le conferenze episcopali del mondo. Quindi c'era anche la conferenza episcopale italiana, non c'era. Se non sbaglio, il presidente della CEI non c'era, Bagnasco, c'era un vice, credo proprio il vescovo di Bologna, se non ricordo, o di Reggio Emilia. E, insomma, tra le tante cose di cui si sono parlati tra di loro in quel simposio, è uscito fuori uno studio che è commissionato dalla Santa Sede per quantificare il danno economico che la Chiesa nel mondo aveva subito tra il 2010 e il 2012 in seguito. Appunto proprio a quegli scandali che hai nominato tu, quelli statunitensi e irlandesi soprattutto. Poi stiamo parlando quindi degli anni 2009-2010, anche in Germania era successo parecchio. E insomma in 2 anni in termini di mancate offerte oppure di, ecco, caso irlandese, non è che quel 22% in meno, anzi quei 22 punti in meno di cattolici irlandesi sono diventati atei, no, semplicemente. Diciamo, hanno indirizzato la loro attenzione verso un'altra chiesa o altre chiese e attenzione non solo in termini di preghiere ma anche in termini di offerte. Se Insomma, il danno economico provocato da, dalle modalità, dalle cattive modalità, di dalle pessime, la pessima gestione dei casi di pedofilia clericale nel mondo dalla chiesa di Ratzinger, è stato quantificato da loro stessi in circa 2 miliardi di euro in quei 2 anni, solo in quei 2 anni. Quindi questo si somma, va sommato a quello che hai detto tu: negli Stati Uniti tra il 2002 e il 2012 hanno dichiarato fallimento, poi è diverso dal nostro la procedura fallimentare, insomma, negli Stati Uniti, ma insomma 12 diocesi americane sono andate davanti al giudice a dire: non abbiamo i soldi per risarcire le vittime che ci hanno denunciato, insomma, e sono state riconosciute come tali. In quel decennio queste 12 diocesi, ma poi anche altre situazioni, diciamo, sparse in tutti e 52 gli stati dell'Unione, sono costati alla Chiesa americana circa 3 miliardi di dollari, quindi 3 miliardi di là, di dollari, 2 miliardi di qua. Insomma, la chiesa di Ratzinger, perché la chiesa di Ratzinger, insomma, cominciava ad accusare parecchi colpi, e perché il denaro ovviamente è un elemento fondamentale per detenere il potere politico. Eccola là che a un certo punto qualche cosa si doveva cambiare. Le leggi che avrebbero permesso allo Stato Vaticano lanciare un chiaro segnale di rottura col passato non sono state fatte. Io lo chiamerei, cioè, quello che hanno fatto possiamo definire tranquillamente leggi di facciata. Hanno cominciato a cambiare gli uomini, uno di quali è stato Joseph Ratzinger. Io qui mi fermerei, mi piacerebbe sentir parlare, ecco, prima chi ci ascolta in radio ha ascoltato per pochi secondi la voce di Tommaso Dell'Era, che è un esperto, ma vorrei sentir parlare anche gli altri ospiti che sono qui al tavolo. Grazie. E io darei la parola al professor Flamigni. Carlo Flamigni lo conoscete tutti, voce autorevolissima. Fa male, perché io avrei anche buoni consigli. Per esempio, per risolvere in parte questo problema della pedofilia basterebbe modificare l'età nella quale si diventa adulti, ecco. Cioè fare una cosa di questo genere: embrioni sempre fino ai 5 anni di vita extrauterina e poi adulti, così i paides scompaiono e non, pedofilia, puff, non c'è più. Vabbè, detto questo, io leggo sempre i libri di Federico con grande piacere, da un lato, ma anche con un po' di sofferenza, perché questo non è un momento nella vita dell'uomo in cui nascere è gradevole, per molte ragioni, per come vengono trattati i bambini, perché non ci sono solo i preti pedofili a fare dei danni così gravi, ci sono anche molte altre. Da noi recentemente al Comitato di Bioetica è venuto un chirurgo della mano, che tra l'altro lavora quasi esclusivamente per l'Organizzazione delle Nazioni Unite e va nei paesi dove c'è bisogno di chirurghi della mano. C'è un paese in Africa, non mi chiedete qual è perché me lo sono dimenticato, nel quale sono delle bande di predoni che scendono e sono colonne, e ognuna ha scelto una specie di marchio. Quando arrivano nei villaggi, quella più a est taglia la mano destra di tutti i bambini che trova, quella del centro taglia la mano sinistra, un altro il piede destro, il piede sinistro, mano destra e piede sinistro. Sono 80.000 amputati. Tra l'altro quelli adatti a un rimpianto sono pochissimi, e quindi si può fare molto poco. La ragione è mettere la situazione economica del paese, fare il maggior danno possibile. Un paese con tanti amputati non sa veramente come cavarsela. Ma non è solo questo. Voi non avete un'idea di quello che fa l'industria farmaceutica, che ha fatto e continua a fare per le sue sperimentazioni. Oggi sono molto importanti i vaccini. I vaccini si sperimentano sui bambini per 2 ragioni. La prima è che non hanno ancora incontrato malattie importanti e soprattutto hanno difficilmente incontrato le malattie per le quali vengono vaccinati. E la seconda che sono i destinatari dei vaccini. Ma i vaccini, quando sono sperimentali, fanno anche un mucchio di danni. Negli Stati Uniti sono stati utilizzati per moltissimi anni, per decenni e decenni, i bambini dei brefotrofi, i bambini abbandonati, quelli ricoverati negli ospedali per bambini abbandonati e così via. E ho sempre in mente una risposta molto piccata di un medico al quale contestavano questa scelta. E lui diceva, ma insomma, questi bambini hanno ricevuto un dono straordinario dalla società, dovranno restituirlo. Che è la cosa più odiosa che una persona possa immaginare una risposta. Avrei altre cose di questo genere. Posso dire un altro danno che la Chiesa fa a se stessa perché non punisce i pedofili? Parlavi dell'Irlanda. In Irlanda nel 2000 c'è stato un problema che riguardava l'interruzione di gravidanza. Fu autorizzata una donna ad abortire perché aveva minacciato di suicidarsi. Dopodiché il governo di quello Stato pensò di modificare la legge in modo che non fosse più possibile neanche per questi casi interrompere una gravidanza, e visto che sottoponeva il problema ai cittadini, vuole inserire un'altra questione. Voleva cambiare la definizione di inizio di vita personale, non più momento del concepimento ma momento dell'impianto. Se ci pensate, questo lascia alcuni giorni di possibilità di studio, di indagine, di utilizzazione degli embrioni. Cosa terribile, è alito del demonio in qualche modo. Eppure tutti i vescovi, 74 mi pare che fossero, convennero che questa era la scelta giusta. Non passò il referendum per pochi voti, e però i giornali dei cattolici, diciamo, più rigorosi accusarono i vescovi di aver accettato di far votare i fedeli questa cosa ignobile per loro, per una ragione, perché il governo gli dava i soldi con i quali potevano essere pagati i genitori dei bambini che erano stati sodomizzati e che quindi avevano chiesto di essere rimborsati. Questa è una cosa che fa un danno straordinario. Ecco, credo che avrai modo di scrivere un altro libro comunque, perché questa cosa non finisce qui, e siamo, credo, tutti anche molto curiosi di capire che cosa succederà adesso con questo nuovo pontefice. Io intanto ho una sensazione che quello che se n'è andato non se ne sia andato a caso. C'è un'ipotesi che gira per il web, è abbastanza carina, che dice che è stato un colpo di rotta giapponese. Ha deciso di buttarsi per terra trascinandosi dietro tutti quanti i vescovi e i cardinali più difficili da manipolare, in modo che il nuovo Papa non si ritrovasse d'intorno. Colpo di lotta giapponese, usa la forza dell'altro per vincere, è un colpo di lotta, quindi, che si può anche capire. Questo Papa, a mio avviso, deve avere capito quanto è difficile muoversi all'interno della Città del Vaticano. Se andate sui siti dei cattolici, quelli più meno rigorosi, diciamo, quelli delle comunità di base, trovate alcune cose molto interessanti. La prima riguarda la discussione sulla etica e sulla regola morale. Chi è che deve stabilire la dottrina? È giusto modificare la dottrina tenendo conto delle modificazioni della morale di senso comune, quella che ci riguarda tutti quanti? O anche questo è alito del demonio? Per molti di questi cattolici è giusto modificare la dottrina, perché dicono la dottrina in qualche modo è figlia della morale di senso comune, come l'intelligenza e la scienza sono figlie del senso comune in generale. Questo lo ha fatto capire molto chiaramente il fatto che l'indebolimento complessivo della Chiesa Cattolica e del Vaticano si è visto da come si sono comportati gli altri. È stato accusato, e non l'avrebbero mai fatto 10 anni fa, di una serie di cattivi comportamenti, tra l'altro odiosi sotto molti punti di vista. È una novità, non eravamo abituati a queste aggressioni. E un'altra cosa che deve avere convinto il pontefice che è ora di cambiare è l'indagine che è stata fatta da molte istituzioni su cosa pensano i cattolici su una serie di temi etici. Per esempio, nel mondo i cattolici che sono favorevoli all'interruzione di gravidanza in molte circostanze sono più del 50%, in Italia sono solo il 12 o 13%, però se tu gli dici, ma per esempio le gravidanze indotte da violenza carnale, beh, quelle sì, ti dicono. Quindi c'è una modificazione del modo di pensare che fa ragionare, io credo, le persone di buon senso sulla necessità di riprendere in mano la dottrina e di capire se effettivamente deve rimanere immodificata oppure no. Questo mi fa però anche venire in mente altre cose, ecco perché credo che potrei scrivere un altro libro. Questo nuovo pontefice, che qualcuno ha persino tacciato di essere comunista, cosa che dico io per primo, non ci mancherebbe altro, scelgo io i compagni, non possono essere definiti. Questo nuovo Papa, a dire il vero, per un laico come me non ha fatto niente. Cioè il fatto che abbia concesso ai divorziati di fare la comunione, posso dirlo brutalmente, non me ne può fregare di meno, e non aggiunge niente alla laicità di questo paese. Io credo che gli si dovrebbe fare una domanda molto precisa. Vuoi veramente generare una modificazione, un cambiamento, e dopo ti crediamo quando dice che perseguiterai i preti pedofili, ti crediamo quando dice che cambierai le regole? Smetti di succhiare soldi a questa povera vecchia con le vene varicose che si chiama Italia e che già mafia e politica che succhiano tutto quello che possono proprio dalle sue varici. Io darei la parola a Maurizio Turco. Maurizio Turco è parlamentare radicale, non più parlamentare, è stato parlamentare radicale sia qui che a Strasburgo, se non sì. Mi ricordo male, è comunque un protagonista di mille battaglie radicali, e anche se non è parlamentare, però io vorrei che provasse anche a, perché va bene quello che si può chiedere alla Chiesa, però anche lo Stato forse deve fare la sua parte su queste vicende di pedofilia più di quanto non abbia fatto. E quali potrebbero essere le linee per affrontare anche nel nostro paese in modo più concreto ed efficace il tema della pedofilia nel clero? Sì. Ma io inizierei intanto dai libri, nel senso che partecipavo già a un'altra presentazione del primo volume. Dalla sua Federico c'ha che sin dal primo momento in cui questo problema si è posto anche nel nostro paese, ha sempre seguito quello che è stato l'evolversi delle diverse situazioni nei diversi ambiti. C'è poi da dire che, oltre al fatto che sono pochi i giornalisti che in Italia si sono occupati della pedofilia clericale, Federico ha cercato anche di approfondire, cercare di capire quale fosse l'origine e poi le diverse articolazioni del problema. Penso che soprattutto in questo secondo libro ci restituisca ancora di più quello che è l'evidenza di una struttura che non è più in grado di autogovernarsi. Per tornare poco indietro, va ricordato che il cardinale Ratzinger, da prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, aveva avvocato alla Congregazione della Dottrina della Fede quello che dicevi appunto tu, e questo era accaduto successivamente al fatto che un avvocato americano era riuscito a far recapitare in Vaticano un dovere a comparire in un processo civile in America. Era la prima volta che accadeva e sarebbe stato un qualcosa di gravissimo. Nel giro di 2 mesi Ratzinger diventa Papa e quel processo è caduto. Ma la cosa importante è che noi siamo riusciti nel 2002 a far venire in Italia Daniel Scii, l'avvocato che aveva provocato tutto questo, e che nel 2002 aveva tirato fuori quel documento di cui si parla nel libro approfonditamente, la Crimen Sollicitationis del 62, un documento c'era scritto che doveva essere conservato segretamente dal vescovo nelle diverse diocesi e che dava ordini tassativi sul fatto di dover tacere e mantenere il segreto su tutti gli atti di violenze sessuali in cui fossero venuti a conoscenza non solo i preti ma tutti coloro che gravitavano nell'ambito diocesano. E soprattutto è importante il passaggio che è ben spiegato nel libro perché nel testo si parla nel momento della confessione, poi viene spiegato però che per confessione non è inteso l'atto della confessione ma tutto quello che c'è prima e c'è dopo, cioè il fatto stesso che rappresenta un membro del clero è quello proprio di essere il soggetto a cui confidare o confessare. E quindi in questo qualsiasi violenza sessuale accaduta in qualsiasi momento veniva ricondotta alla congregazione della dottrina della fede, quindi venivano ridotte le possibilità di che si laicizzasse, si conoscesse la portata di questo fenomeno. Io, a differenza del professor Flamini, credo che qualcosa negli ultimi due anni sia cambiata. Allora, già Pietro Prini, filosofo, parlò di scisma sommerso 30 anni fa ed era lo scisma, diciamo, tra la base, il popolo dei fedeli e la curia vaticana. Oggi c'è un altro scisma che è paradossale, è tra il Papa e la curia, nel senso che noi abbiamo il Papa che dà ordini tassativi alle conferenze episcopali di tutto il mondo e dà ordine che i vescovi denuncino all'autorità giudiziaria i casi di pedofilia. Posso in cui dire, non dà ordine, invita. Va bene, invita. Sì, un invito del Papa che è uno, cioè per noi è un invito. L'invito del Papa per una conferenza episcopale nei fatti è un ordine. C'è una conferenza episcopale che proprio neanche l'invito, come lo intendiamo noi, lo prende in considerazione, è quella italiana. Noi abbiamo chiesto, ma andiamo chiedendo da anni, alla conferenza episcopale italiana di fare una cosa molto semplice: siano loro a mettere in campo una commissione d'inchiesta indipendente, la nominino loro. L'importante è che questa commissione d'inchiesta abbia accesso agli archivi segreti delle diocesi. Ma ritornando a quel documento del 62, noi lo tirammo fuori nel 2002. Per 8 anni il Vaticano ha sostenuto che era un falso. Improvvisamente Papa Ratzinger, 3 anni fa, dice trasparenza, mettiamo giù tutti i documenti, mettono la Crimen Sollicitationis in latino e la traduzione in italiano che avevamo fatto noi. Cioè, io penso che c'è una disattenzione rispetto a questo cosa rappresenta questo problema per la Chiesa. E penso che nella risposta di Don Mazzi, quando fu interpellato su questo problema, ci sia un po' l'essenza e un po' anche la natura di un certo modo di intendere l'organizzazione di una confessione religiosa. Don Mazzi disse semplicemente: chiudete i seminari. Lo ha detto 2 anni fa, e non chiudete i seminari. Perché? Perché la stragrande maggioranza dei preti pedofili sono state a loro volta vittime di violenza. E questa violenza che si genera e si riproduce è insita in un certo modo, come dire, il professore potrebbe approfondire, cioè la questione del sesso e della sessuofobia. Cioè è lì che e tutte le questioni che stanno un po' sconvolgendo la Chiesa rispetto ai discorsi del Papa, con questo hanno a che fare, nel senso che torniamo sempre alle origini di quello che è stato un problema cardine che la confessione religiosa ha creato innanzitutto ai propri fedeli nella vita nella vita quotidiana. Ecco, la nostra esperienza qual è? Noi abbiamo incominciato a interrogare il Parlamento europeo innanzitutto, perché noi, tipo in quest'ultimo caso, ma perché l'ONU si occupa del Vaticano? Perché il Vaticano sino ad oggi ha inteso essere riconosciuto come Stato nei diritti di cui godono gli Stati, ma si è sempre rifiutato di corrispondere nei doveri in quanto confessione religiosa. Questa è la prima occasione nella quale, diciamo, d'iniziativa da parte di un potere laico viene messa in discussione una politica clericale. L'altro campo, in cui se ne parla anche nel libro incidentalmente, l'altro campo è quello dello IOR, no, delle finanze vaticane, nelle quali ci siamo ritrovati per mezzo secolo a inseguire i capitali sporchi nei paradisi fiscali, e c'era il paradiso qui nel cuore dell'Europa, proprio in Vaticano. E noi stiamo vedendo anche nell'evolversi di quello che sta accadendo all'interno dello IOR, che adesso uno potrebbe anche dire il Papa fa il doppio gioco, cioè all'esterno dice una cosa, bisogna che lo IOR non abbia più tutte quelle carenze in termini di trasparenza, e poi lo IOR continua ad avere quelle carenze in termini di trasparenza. Quindi io credo che stia accadendo, anche al di là della volontà del Papa o di chiunque altro, stia accadendo qualcosa. Quanto questo qualcosa modificherà alla radice, perché di questo parliamo, e non in termini temporali della tenuta, diciamo, di un papato, perché non è questo in discussione, questo lo vedremo. Però io penso che ci sia una selezione in atto, no? Anche all'interno della Chiesa Cattolica, sempre più chiara, tra coloro che si ritrovano in una contrapposizione ideologica e chi si ritrova invece in una contrapposizione teologica, cioè una visione diversa della religione e della religiosità, che sempre più, specialmente in momenti di crisi lo sappiamo, sempre più riesce a dare delle risposte rispetto ad un potere politico che attualmente in tutto il mondo non è in grado di darle. Quindi la pedofilia è stata una questione indicativa, attraverso la quale siamo riusciti a porre altre questioni, devo dire, nel silenzio assordante del mondo politico. Cioè, è paradossale, i passi avanti in termini, direi, di linguaggio del Papa, mettiamola così, se non altro di linguaggio del Papa, è l'arretratezza di linguaggio della classe politica. Cioè, noi abbiamo oggi, siamo riusciti a convincere l'ordinariato militare che devono rinunciare alle stellette e agli emolumenti. Lo hanno dichiarato. L'Italia ha difficoltà. L'Italia ha difficoltà perché c'è tutto un processo legislativo che non si capisce bene da chi dipenda, per poter corrispondere a quella che è una volontà manifestata. Ormai abbiamo appurato tutto, cioè c'è questa volontà di uscire fuori dalla dimensione. D'altronde il Papa adesso, non dico ha scomunicato, però ha maledetto i produttori di armi, quindi figuratevi se non c'è attenzione da parte di un certo mondo, cattolico. E vorrei chiudere con un'esperienza che abbiamo fatto, in cui Federico Tulli è stato sempre presente, quella dell'Istituto Provolo di Verona. Cioè, la cosa paradossale è che quando un istituto per sordomuti, quando sono accaduti questi fatti, i sordomuti erano per la legge considerati incapaci di intendere e di volere, quindi anche se avessero denunciato chissà che, la legge non gli avrebbe potuto credere, quindi chiusa la questione. Ma soprattutto ci hanno messo anni per maturare e superare il senso di colpa, perché è spiegato benissimo nella prefazione della professoressa Gatti, no? Questo considerare da parte della Chiesa Cattolica la vittima della violenza sessuale un coattore e non una vittima. Quindi questo apre una problematica enorme rispetto al tentativo, anche psicologico, rispetto alle persone, di indurle ad aver sensi di colpa e mai la consapevolezza della violenza subita. Noi siamo usciti fuori a Verona mentre stavano per beatificare l'ex vescovo Monsignor Zenti, tirando fuori questi casi. Hanno sospeso la beatificazione. Carraro, a Monsignor Zenti è l'attuale, quello sì, che ci voleva denunciare. Sì, Monsignor Carraro, hanno sospeso la beatificazione di Monsignor Carraro. Monsignor Zenti ci voleva denunciare, gli abbiamo spiegato alcune cosette e ci siamo messi d'accordo che noi eravamo favorevoli a che il Vaticano nominasse una sua commissione, a condizione però che ci dessero copia delle registrazioni. Si è tenuta la commissione d'inchiesta, le registrazioni non ce le hanno date. È l'ultimo episodio dell'altro giorno che uno dei preti accusati, di cui ha preso buona nota il Vaticano, a uno dei preti accusati adesso stanno dedicando una piazza. Cioè, io credo che la sottovalutazione di quello che è accaduto e di quello che sta... Deve essere un tunnel. Senza uscita. Dove andare a sbattere. No, quello che è accaduto nel corso dei decenni, ma quello che sta ancora accadendo, perché questo silenzio, e il silenzio adesso sì ci vuole, sono importanti ma non sufficienti le parole, ci vogliono atti concreti ed è paradossale, a dir poco paradossale, che il Papa non sia in condizione, proprio in un paese come l'Italia, dove di fatto assede la Santa Sede, non ci sia un'opera di verità. Cioè, noi non capiamo, forse il professore ci può aiutare, noi non comprendiamo perché i cattolici italiani, a differenza dei cattolici americani, belgi, austriaci, irlandesi, siano considerati cattolici di serie B, cioè incapaci di intendere, di volere e soprattutto di conoscere. Grazie a Maurizio Turco. Io do subito la parola a Tommaso Dell'Era. Il professor Flamini mi chiedeva di fare una piccola presentazione. Una frase. Lo scisma sommerso del quale parlava, scriveva Pietro Perini, era pacifico. Bastava ignorarlo, sotterraneo. Nessuno ne ha fatto un vero problema. Questo attuale è bellicoso. È tanto bellicoso che se andate a leggere nei siti dei cattolici, delle comunità di base, trovate spesso questo consiglio al Santo Padre di scegliersi un assaggiatore di cibi, perché si ricordano di Luciani. E qualcuno ha già risposto loro, non vi preoccupate, ci ha già pensato lui. Credo anch'io. Il Papa già dichiarato. Sì, non frequenta neanche il Vaticano, insomma, per quanto possibile. Sembra paradossale, ma è proprio vero. Parola a Tommaso Dell'Era, che credo parlerà del Papa anche lui, che insegna filosofia della politica all'Università della Tuscia. Mi ha detto uno ben informato che tiene addirittura un corso su tecniche di propaganda della Chiesa in materia di pedofilia. Avrà modo di parlarcene, spero. Grazie. Non di tecniche di pedofilia. No, ho detto bene. Grazie. Allora, io mi trovo un po' in difficoltà a parlare qui perché, diciamo, sì, d'accordo, faccio questo corso di teorie tecniche di propaganda politica in cui una parte, diciamo, una sola parte, è dedicata alla propaganda cattolica sugli abusi sui minori nella Chiesa. Ma in realtà mi trovo un po' in difficoltà perché, diciamo, sono comunque una delle persone che è stata coinvolta in questo fenomeno, no? Ho rilasciato la mia testimonianza alla Commissione contro la tortura dell'ONU E quindi vi chiedo scusa se non sarò molto sistematico, ma insomma parlerò di diversi temi, un po' diciamo sollecitato dagli interventi che ci sono stati, e chiedo anzi al moderatore di fermarmi, perché io di solito parlo anche molto, quindi appena è l'ora insomma mi date lo stop. E volevo però coinvolgere un po' il pubblico chiedendovi una cosa: cosa succederebbe se io fossi un preside di una scuola, per esempio di un liceo qui di Bologna, e convocassi una conferenza stampa perché un insegnante del mio istituto ha abusato di una ragazzina, diciamo di una ragazzina di 13 anni, di 14 anni, la stessa cosa. E durante questa conferenza stampa io dicessi: questo fatto che è accaduto è un fatto orrendo, però non dobbiamo dimenticare il bene che ha compiuto questo professore. Quale sarebbe la vostra reazione? Non lo si può dire. Allora, vi riporta un fatto reale. Il Cardinal Scola, arcivescovo di Milano, cardinale, quindi ha partecipato al conclave, e ha celebrato una messa nel carcere di San Vittore nel Natale, se non ricordo male, del 2013, a proposito diciamo della vicenda di Don Alberto Barini, il cappellano che sfruttava il suo potere, diciamo, di garantire dei favori eccetera eccetera in cambio di prestazioni sessuali da parte di detenuti adulti, in questo caso, no? E durante questa, diciamo, messa ha detto queste parole: non bisogna dimenticare il bene che ha compiuto questo sacerdote. Perché, diciamo, questo non provoca nessuna reazione in Italia, non c'è stata nessuna, diciamo, articolo, anzi, questo testo voi lo trovate sul sito dell'Arcidiocesi di Milano. Dimenticando tra l'altro che è proprio grazie a questo bene che ha compiuto che ha potuto compiere quei crimini per i quali poi è stato accusato e incarcerato a sua volta, no? Allora, noi abbiamo due libri scritti da Federico Tulli, e dall'altra parte abbiamo un Papa che sbraccia, si spertica in una serie di comportamenti e soprattutto in una serie di paragoni molto arditi, che lancia continuamente immagini che devono essere immagini che colpiscono poi insomma la immaginazione dei fedeli, e che cerca in tutti i modi di far sì che passi questo messaggio: io sono un Papa che cambierà le cose, in continuità con quello che è successo prima, perché comunque l'istituzione va salvata, però le cambierò, e involontariamente ma anche volontariamente dà l'immagine di essere un rivoluzionario, tant'è vero che è stato, diciamo, continuamente supportato dai giornali, dagli organi di stampa cattolici nella sottolineatura di ciascuno di questi gesti, no? Le scarpe nere ortopediche, la borsa che si porta dietro durante il viaggio, no? E il fare il gesto, diciamo, questo gesto a tutti i fedeli e baciare i bambini, attenzione a queste immagini perché dopo la riprendiamo, no? L'abuso sui minori è come una messa nera, l'ultima cosa che ha detto, no? E dall'altra abbiamo un libro che ci dice qualcosa di diverso, anzi due libri, no? Scritti da Federico. Qui secondo me dobbiamo intenderci su quello che è un abuso, no? Un abuso sui minori, e distinguere dalla concezione clericale di questo abuso. Nel libro è spiegato abbastanza bene e, diciamo, ci possiamo tornare. Allora, l'abuso sostanzialmente su minori, che sia un abuso sessuale, diciamo, o psicologico, è da parte di chi lo compie la conseguenza di un disturbo di personalità recidivante. Questo disturbo di personalità non è una condizione che toglie la capacità di intendere e di volere al criminale, perché l'abusatore, per compiere il suo crimine, che è quello appunto di avere un rapporto sessuale di qualunque tipo, basta una molestia, un palpeggiamento, anche addirittura a volte semplicemente, diciamo, dei discorsi, per fare questo, per raggiungere questo suo fine, mette in atto tutta una strategia particolare che si chiama adescamento, che deve proteggerlo dallo sguardo altrui, perché questo deve venire al riparo da qualunque tipo di azione esterna. Quindi qui abbiamo un criminale che compie questi atti, che ha sempre la responsabilità, perché il minore per quanto sia intelligente, furbo, eccetera, eccetera, non è in grado di affrontare una questione del genere. Che si tratti di un bambino o di un adolescente, sempre sarà possibile in tanti modi, diciamo, catturare la propria fiducia e abusarne in diverse, diciamo, condizioni e situazioni, no? Quindi la responsabilità è sempre dell'adulto. Ed è un comportamento recidivante. A tutt'oggi esistono dei protocolli fuori dall'Italia di intervento sugli abusatori, cioè per curare coloro che abusano dei minori, che siano preti o che siano laici, no? In Italia ancora non esistono, nonostante, diciamo, la letteratura internazionale dal punto di vista scientifico è estremamente ricca, non esistono, diciamo, da un punto di vista professionale, poi ne parleremo se avremo tempo. E quello che ci viene detto da queste esperienze di persone, di professionisti che lavorano su centinaia di casi di cura di preti pedofili e di, non solo di preti pedofili, comunque di abusatori e di vittime abusate, è che queste persone che compiono questi crimini sono portati a ripeterli. In media un sacerdote o comunque un abusatore, anche laico, può fare circa 200 vittime. E come avviene, esattamente come avviene con il fenomeno della violenza maschile contro le donne, la punta dell'iceberg è quella che emerge. Sotto c'è un sommerso incredibile. E questo lo sanno tutti coloro che operano in questo settore. Allora, da questo punto di vista, i rimedi spirituali, la preghiera, la penitenza, le ammonizioni, non servono assolutamente a nulla. Sono cose che la Chiesa ha tutto il diritto di fare, ma che da un punto di vista pratico sono totalmente inutili. Perché queste persone devono essere ridotte sempre, in qualunque caso, allo stato laicale. Questo perché? Per un semplice motivo, perché il sacerdote ha milioni di occasioni di avere contatti con minori. Provate a immaginare non solo la confessione, per la quale uno si potrebbe anche chiedere quali sono le competenze, la formazione professionale, psicologica e psicoterapeutica che i sacerdoti hanno nel trattare in confessione di materie che devono servire a distinguere il bene e il male con minori di 18 anni, con bambini di 7-8 anni, come abbiamo ascoltato, no? Nei seminari non c'è nessuna di queste competenze. La psicologia che si studia nei seminari è la psicologia filosofica, cioè Aristotele. Quindi non si studiano, diciamo, tutto quello che fa parte della formazione di uno psicologo professionista, no? Ma perché la stessa condizione di sacerdote mette questa persona al di sopra dei normali fedeli e gli conferisce un potere straordinario, no? C'è sempre un pregiudizio positivo nei confronti del sacerdote e c'è uno status particolare. Bergoglio, che parla, diciamo, dal pulpito come Papa, Francesco I o Francesco se volete, questo personaggio è un personaggio che, come potete leggere in tutte le innumerevoli biografie che sono uscite subito dopo la sua elezione, si è formato sostanzialmente come prete. È entrato abbastanza giovane in seminario, ha avuto già diversi contatti prima, poi fa tutta la trafila, no, del gesuita, quindi è un religioso che poi diventa sacerdote, fa i voti e fa anche il quarto voto di obbedienza al Papa, eccetera, eccetera. Poi diventa vescovo, arcivescovo, adesso è diventato prete. Quindi è il figlio di questa struttura clericale, che è la stessa per decenni, fino a pochissimo tempo fa, che ha coperto gli abusi. Allora, quale potrebbe essere, secondo voi, la forza di Bergoglio nell'intervenire se lui stesso è partecipe di questa stessa logica? Un sacerdote, diciamo, questo è qualcosa che ciascuno di noi può tranquillamente, diciamo, comprovare, è una persona che sostanzialmente non affronta i problemi essenziali della vita, a meno che non sia uno che è diventato sacerdote più tardi, no? Cioè una persona che non ha il problema di trovarsi un lavoro, uno stipendio, non deve pagarsi una casa, non ha il problema della famiglia, il problema, diciamo, anche la gioia della famiglia, eccetera, eccetera, no? Perché tutto questo gli viene dato dall'istituzione, dalla Chiesa. Riceve uno stipendio per fare il parroco, deve dare conto di questa sua attività al vescovo, il vescovo al cardinale, il cardinale al Papa, no? Cioè una struttura gerarchica nella quale è inserito. In cambio di questo gli viene chiesto di osservare una disciplina che è quella del celibato apostolico, cosiddetto, no? Allora, questo fatto rende il sacerdote sostanzialmente diverso da ciascuno di noi, no? Come potete voi, diciamo, immaginare che una persona come Papa Bergoglio venga a parlare, no, ad un padre di famiglia, a una madre di famiglia che non ha i soldi per arrivare alla fine del mese e gli dica: questa è la croce di Cristo, no? è qualcosa, diciamo, che è molto facile dire dalla posizione in cui ci si trova. Perché comunque tu, anche se sei Bergoglio che ti cucinavi da solo a casa nell'arcivescovato di Buenos Aires, come riportano tante biografie, eccetera, eccetera, comunque da mangiare ce l'hai sempre avuto. Una casa ce l'hai avuta, c'era qualcuno che ti puliva, no? Sei in una situazione totalmente diversa e questo stato si chiama lo stato clericale, che ti garantisce una serie di diritti e di privilegi che poi sono declinati diversamente nei diversi stati attraverso i concordati, no? Da noi, diciamo, in Italia sono dei privilegi abbastanza ampi. E l'altra cosa che vorrei, diciamo, approfondire è la questione della modalità con cui la Chiesa ha affrontato questo tema. Tendenzialmente, diciamo, la questione viene sempre rubricata attraverso questa formula, la sollecitazione ad turpia, la sollecitazione alle cose vergognose, a cose turpi, no? È un tipo di peccato che nasce nella seconda metà del Cinquecento con il ripristino, diciamo, dell'Inquisizione e del Sant'Uffizio, con la nascita di quella che è la sacra e universale Inquisizione romana, che poi diventerà nel 1917 Sant'Uffizio e nel 65 Congregazione per la Dottrina della Fede. Il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede dal 1981 al 2005 è stato Josef Ratzinger. Allora, quando si comincia a introdurre dopo il Concilio di Trento la pratica della confessione nei confessionali, si prescrive addirittura come devono essere costruiti, la confessione segreta o regolare, no? E si insiste in maniera molto dura sul rispetto del celibato, no? E introdotto nell'anno 1000, nasce questo peccato nuovo di cui si deve occupare il Sant'Uffizio, l'Inquisizione romana, cioè la sollecitazione. La sollecitazione è l'invito fatto in qualunque maniera da parte di un sacerdote nei confronti del penitente a compiere o anche solo a immaginare di compiere degli atti di natura sessuale, no? E questo invito può essere fatto non solo in confessione, ma anche in occasione della confessione, anche se il sacerdote si trova a casa e dice a un suo penitente: andiamo a confessarci perché vorrei parlarti di certe cose che vorrei fare insieme a te, no? Anche addirittura se questo avviene intorno alla confessione, no? Quindi la sollecitazione ad turpia, che è il modo in cui la Chiesa ha affrontato questo problema, non riguarda principalmente il crimine degli abusi sui minori, riguarda la condotta dei sacerdoti nei confronti dei penitenti. Il crimine degli abusi sui minori non esiste neanche nelle legislazioni laiche per tanto tempo, quindi su questo poi va aperto tutto un fronte che riguarda anche oggi il modo in cui lo Stato italiano affronta questo problema, ma per la Chiesa comincia a esistere solo nel 2001. Quando compare nel testo delle norme introdotte da Ratzinger, cioè da Wojtyła e sanzionate da Ratzinger, il termine di abuso compiuto da un chierico con un minore, no? Come si dice bene nel libro. Questo perché? Perché la condotta sessuale del clero riguarda diversi aspetti. Quindi, quando si parla di rapporto omosessuale, questo è il peccato de pessimo. Quando si parla di rapporto sessuale, che sia con un maggiore o con un adulto o con un minore, al di fuori della confessione, questo è il delitto contro il sesto comandamento. E di questi delitti se ne deve occupare l'Inquisizione, il Sant'Uffizio. Perché? Perché sono delitti che costituiscono un abuso del sacramento, quindi vanno a rientrare in quella categoria delle eresie. E anche perché molto spesso i sacerdoti dicono poi ai propri penitenti, specialmente donne, ma non solo donne, che questo è permesso da Dio, non è un peccato, quindi qui si va su una categoria superiore di eresia, no? Da tutti i documenti che noi abbiamo, il decrimine sollecitazioni si è nato nel 22, in una situazione particolare di cui forse adesso parleremo, ma è un testo che non è mai stato abolito, ancora oggi viene utilizzato, la pratica che dentro è scritta questo testo viene utilizzata dalla Chiesa, no? Ma anche gli altri documenti, per esempio questo del 2001 di Giovanni Paolo II, che si chiama Sacramentorum Sanctitatis Tutela, la tutela della santità dei sacramenti, de delictis gravioribus, sui delitti più gravi dal punto di vista canonico, no? Cioè qui si parla solo dell'abuso del sacramento, la considerazione della vittima si interviene solo nel 2001, è sempre in una visione di complicità. Tant'è vero che uno dei delitti più gravi all'interno della sollecitazione che porta alla scomunica, la de sentenza, è assolvere il complice di sollecitazione, cioè colui che ha fatto peccato sessuale con te, no? Allora capite che questo modo clericale di intendere l'abuso è proprio quello che ha portato a questa conseguenza, cioè per secoli e soprattutto dal 1922 a oggi questa istruzione, che è un regolamento, quindi è un'istruzione che ha carattere vincolante, che nasce al centro della Chiesa, cioè nella Santa Sede, ancora prima che nasca lo Stato-Città del Vaticano, no? E che quindi dimostra il legame che esiste tra Roma e i sacerdoti, i vescovi di tutto il mondo, da quell'anno in avanti questa istruzione è stata utilizzata per coprire questi abusi. Perché? Perché si dice esplicitamente in alcuni documenti il fine principale di questa istruzione è quella di tutelare il buon nome del clero. Non è importante, diciamo, pensare alle vittime, no? È scritto proprio esplicitamente tutelare il buon nome del clero, perché lo scandalo che deriva dalla scoperta di questi atti, che noi possiamo sistemare in un modo che adesso vi spiego, no? Con rimedi spirituali, è talmente grande che è più importante tutelare il buon nome della Chiesa. E poi si dice anche il bene delle anime. Ma il bene delle anime è inteso in che modo? Inteso nel modo del versetto del Vangelo di Matteo: chiunque scandalizza ciascuno di questi piccoli, sarebbe meglio per lui che gli si mettesse una macina al collo e si gettasse nel mare, no? Questo viene rovesciato, cioè noi non dobbiamo procurare scandalo tra i fedeli e quindi dobbiamo nascondere. E questo fatto del segreto è scritto molto bene nelle prime righe del documento, no? In queste prime righe del documento c'è scritto: questa istruzione deve essere mantenuta nell'archivio segreto del Vescovo, che per il concordato, per esempio, tra l'Italia e la Santa Sede del 1929, anche nell'83, è inviolabile, deve essere mantenuto nell'archivio segreto del Vescovo, non deve mai essere aumentato con commenti, non deve mai essere diffuso, in nessun modo. E chi lo fa, chi partecipa al processo e divulga notizie relative a questo documento o anche al processo canonico, viene sottoposto alla pena di scomunica. Questo riguarda tutti quanti, no? Quindi non solo la vittima, anche colui che ha abusato. Guardate che questo discorso non è, come dice il sito del Vaticano, relativo semplicemente alla fase istruttoria del processo, perché ciò è stato specificato come una delle motivazioni, no? In realtà noi vogliamo tutelare la riservatezza di questo processo e soprattutto le vittime, quindi nella fase istruttoria noi poniamo il segreto. No, questo segreto copre tutto il processo e anche la condanna. E nel libro si dice, è vero, riguarda il segreto, riguarda il processo, ma in realtà io non posso mai parlare di ciò che è avvenuto nel processo, neanche di ciò che è l'oggetto del processo, quindi in realtà non posso mai parlare di nulla che riguardi l'abuso che è avvenuto, no? Nella, diciamo, costruzione di questo testo è molto evidente il fatto che c'è un tentativo molto chiaro, riuscito, di non rendere conto alle autorità civili. Cioè la denuncia non deve mai avvenire, perché questo è un problema che possiamo risolvere noi. Come lo risolvono? Ci troviamo, diciamo, in un periodo di riforma della Chiesa, 1917, nasce il codice di diritto canonico, non nel senso che non era mai esistito prima, ma viene raccolto tutto insieme ciò che la tradizione della Chiesa per secoli e secoli aveva, diciamo, elaborato come leggi ecclesiastiche, no? E come leggi canoniche, scusate, no? E in questo momento si decide, visto che non esistono più tribunali diocesani dell'Inquisizione, perché in tanti paesi c'è stata la laicizzazione, in Francia c'è stata la separazione tra Chiesa e Stato, che rende conto di quello che diceva prima Alessandro, e cioè il fatto che in Francia un prete è un pubblico ufficiale, perché lo Stato e la Chiesa sono totalmente separati, no? Come un professore nell'esercizio delle sue funzioni, quando fa gli esami, è un pubblico ufficiale, no? Di fronte alla legge. Allora, in questo momento, non essendovi più i tribunali diocesani dell'Inquisizione, i vescovi cominciano a mandare a Roma tutte le denunce di sollecitazione, che riguardano anche questi casi di abusi, no? E queste denunce hanno un iter molto lungo, e allora si cerca di snellire l'iter. E l'iter qual è con questa nuova, diciamo? Alla prima funzionava in questo modo: alla prima denuncia il vescovo registrava e non interveniva, alla seconda poteva fare una ammonizione, alla terza faceva l'ammonizione e istituiva il processo e dava notizia alla Santa Sede. Naturalmente per il diritto canonico l'accusato si poteva difendere. Voi immaginate queste carte che viaggiano da una parte all'altra del mondo. Ad un certo punto succede che il Sant'Uffizio si trova intasato di carte, e quando alla fine decide, perché la prassi dei vescovi è quella di mandare tutto a Roma, per esempio decide una condanna, si sente rispondere, dopo che la condanna è arrivata, che il prete è già morto. Perché casi di questo genere, diciamo, provocavano una serie di lungaggini enormi, no? E allora la soluzione è quella di permettere di dare l'ammonizione subito. Cioè il prete può essere ammonito, perché qui noi lo stiamo guardando, questo abuso, non come ciò che effettivamente è, no? Ma come un sforamento, una violazione della disciplina del celibato, come una caduta di fronte alle tentazioni della carne, che quindi si può risolvere con mezzi, diciamo, spirituali, no? Ora, questo è stato smentito dalla serie innumerevole di casi di cui noi oggi abbiamo, diciamo, contezza. Se voi andate su un sito che si chiama bishopaccountability.org, troverete tutta la documentazione di tutte le diocesi americane che sono andate a processo. E lì vi renderete conto che dagli anni 60 Paolo VI era stato avvertito dal capo di una congregazione che si occupava di curare questi preti, che il problema era enorme e che non poteva essere affrontato con questi mezzi, eccetera eccetera, no? Allora veniamo, per chiudere, se posso parlare ancora un pochino, a due noi punti. Siamo oltre, siamo un po' oltre, io poi qualcuno magari vuol dire allora, qualcosa. No, perché ci siamo, chiudono la libreria alle 7:30. Io volevo chiedere magari se qualcuno voleva dire qualcosa o chiedere qualcosa in questo tempo brevissimo. Tiene su dell'effetto di marketing di quella valigetta e quelle sue. Grazie. Se posso dire una cosa, il paradosso nel paradosso nel paradosso è il Papa, anzi il segretario, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana è l'unico presidente di tutte le conferenze episcopali del mondo che è direttamente nominato dal Papa. Quindi Bergoglio, nei confronti della nostra conferenza, della Conferenza Episcopale Italiana, potrebbe intervenire in maniera assolutamente diretta, se non altro per, appunto, se ne è parlato molto anche stasera, cioè per invitare a inserire nelle linee guida antipedofilia questo obbligo a collaborare non solo in modo veramente concreto con la magistratura italiana riguardo tutte le notizie di cui i nostri vescovi vengono a conoscenza. Fino adesso non ha nemmeno alzato un sopracciglio in questa direzione. E dico un'ultima cosa, nel libro abbiamo tradotto, e questo non l'ha fatto nessuno fino adesso in Italia, appunto questo carteggio, questo processo, io lo chiamo proprio così, che l'ONU ha tenuto nei confronti della Santa Sede per quanto riguarda 20 anni di violazioni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il processo si è concluso il 5 febbraio, e Tommaso l'ha detto, tre mesi dopo, cioè il 26 maggio, se ne è concluso un altro di processo, molto simile, e questa volta è stata la Commissione ONU sulla tortura a chiamare in causa la Santa Sede per le violazioni di quella convenzione lì. In tutti e due i casi la pedofilia c'è entrata in maniera piuttosto pesante, e alla Chiesa, alla Santa Sede è stato detto, e quindi anche a chi la guida, e cioè il Papa, è stato detto che innanzitutto l'abuso pedofilo non è un crimine contro la morale, ma è un delitto contro la persona, e quindi la Santa Sede deve cambiare tutte le norme che invece fanno riferimento a quello che ha spiegato benissimo Tommaso, cioè che l'abuso non è la violazione del sesto comandamento. Sì, questo può valere per voi, ma prima di tutto dovete trattarlo come un crimine contro la persona. La seconda cosa molto grave, che è sempre è stato accennato da Tommaso, la Santa Sede si è rifiutata sia a febbraio che adesso di fare i nomi degli, dovrebbero essere circa 450 sacerdoti che il buon Papa Emerito durante il suo pontificato ha spretato dopo aver scoperto, la dico in maniera molto sintetica, dopo che la Congregazione per la Dottrina della Fede l'ha condannati per aver compiuto questi abusi. Cioè, sto dicendo che in giro per il mondo ci sono 450 ex sacerdoti pedofili di cui nessuno conosce il nome, di cui nessuno conosce, diciamo, la provenienza, di cui nessuno sa che cosa hanno fatto, cioè perché non sono più dei sacerdoti. E l'ha detto anche questo Tommaso, stiamo parlando di un crimine seriale, 200 bambini violentati in media, ci sono 400 persone in giro per il mondo, e la Chiesa dice noi non possiamo essere costretti a rivelarvi i vostri nomi. Bergoglio potrebbe farlo in due secondi, Papa Bergoglio potrebbe farlo in due secondi, ma a quanto pare ha un anno di tempo per poter rispondere a questa sollecitazione dell'ONU per quanto riguarda la Commissione contro la tortura. Vedremo che cosa farà da qui a un anno. Se prende un assaggiatore di cibi, un anno di tempo. Approfitto per ringraziarvi tutti quanti. Anch'io ringrazio tutti, andremo avanti a lungo, ma ci hanno fatto segni disperati. Io devo chiudere, grazie a tutti voi, complimenti a Federico e grazie a te.